9 in punto. La versione di Oscar. Buon giovedì 29 aprile, cari ascoltatori, da Oscar Giannino. E Oscar Giannino oggi tenterà di capire da voi come la pensate sulla questione dell'equilibrio nella catena della distribuzione del commercio italiano tra la grande distribuzione, quindi i grandi centri commerciali, i grandi spazi, quelli che consentono di centralizzare ovviamente in segmenti come l'alimentare, per esempio, le funzioni di acquisto e quindi vi consentono, sia pure spostandovi magari fuori dalle città, di comprare, di fare la vostra bella sporta di spesa a prezzi molto più bassi di quelli dei negozi di prossimità. Naturalmente con un discorso che riguarda la qualità, che a volte è tutto da discutere, e invece il vecchio tradizionale, non per questo vecchio e cioè inefficiente, ma insomma negozio di prossimità, quello che una volta innervava tutto il centro della nostra città, tutti i quartieri, prima di lasciare magari spazio negli ultimi anni, dove le aree immobiliari commerciali hanno avuto un maggior apprezzamento, poi luogo a negozi di moda, griffati e così via. Allora, perché parliamo di questo? Perché in alcune parti d'Italia si inizia a ridiscutere da qualche tempo a questa parte il ruolo, lo spazio che hanno avuto le strutture della grande distribuzione commerciale, e si inizia a dire no, veramente forse abbiamo esagerato. E il caso da cui partiamo oggi in concreto è quello della regione Piemonte, perché abbiamo letto nei giorni scorsi, subito dopo la formazione della nuova giunta, che uno dei primi atti della nuova giunta è stato quello di ripensare le concessioni che erano state date, non tanto buttarle a mare, ma dire riverifichiamo se davvero le nuove licenze che sono state promesse in molti centri del Piemonte sono davvero necessarie, perché noi siamo preoccupati degli effetti che la grande distribuzione esercita sulla struttura della grande distribuzione e soprattutto sull'impatto che essa è in grado di produrre nella vita di noi tutti, perché ovviamente il dibattito tra commercio di prossimità tradizionale e grande distribuzione ha a che vedere con una modifica dell'impatto nella vita di ciascuno ci sono i tempi, le lunghezze dei trasferimenti, la possibilità che per anziani, disabili, noi siamo una società che sta diventando sempre di più di anziani, possano da soli o autonomamente soddisfare le proprie esigenze di consumo, eccetera, eccetera, eccetera. Dall'altra parte, ovviamente, è anche giusto mettere sul piatto della bilancia il sospetto, no, ma insomma la domanda intorno all'equilibrio che possa essere rappresentato tra chi rappresenta la tradizionale struttura del commercio di prossimità e invece gli imprenditori che sono attivi nel ramo della grande distribuzione. Diciamo che è un rapporto non sempre proprio pacifico. Se pensiamo che la sentenza a cui si è arrivati nel primo grado per lo scontro che è andato avanti un anno e mezzo sull'ultimo libro di uno dei grandi nomi dei supermercati italiani, quindi stiamo parlando del filone del segmento intermedio della distribuzione, cioè Esselunga, Caprotti, il libro si chiamava Falcio e Carrero, uscito 2 anni e mezzo fa, c'è stata la sentenza la settimana scorsa, le COP la consideravano diffamatorie, c'è stata una sentenza così e cos'ha, insomma il magistrato ha dato un colpo cerchio alla botte e quindi si andrà avanti negli appelli, ma insomma quella vicenda insegna che è una coesistenza a volte anche un po' conflittuale quella tra grande distribuzione e invece altre espressioni commerciali. Quella era una lotta in realtà tra anime dei supermercati italiani, però è tradizionale in questi anni, conclusione del mio intervento iniziale, il richiamo che viene da Confcommercio, non solo da Confcommercio, intorno al fatto che va bene le liberalizzazioni, però le regioni, che sono poi incaricate di attuare la Bersani, hanno un po' esagerato. È veramente così? Voi come la pensate? Chiamate all'800 24 00 24. Intanto diamo la parola per la prima parte di questa trasmissione a William Casoni, che è assessore al commercio appunto della regione Piemonte, che ha sollevato questo problema. Buongiorno assessore. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. E abbiamo con noi Fabio Pamoldi, che conoscete benissimo, e il presidente del CERM. Buongiorno Fabio Pamoldi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, assessore, questa prima iniziativa nasce dalla convinzione che in che cosa queste nuove queste licenze potessero potessero rappresentare un problema e bisognasse ripensare il tutto? Ma vede, in Piemonte, come credo in grande parte dell'Italia, negli ultimi anni si è assistito al triplicamento delle strutture di grande distribuzione, per cui oggi si può dire che qualunque cittadino che voglia utilizzare questi servizi per comprare, appunto per andare in un ipermercato, in un grande centro commerciale, non ha che l'imbarazzo della scelta, quindi diciamo, non si va a intaccare la capacità di spesa di chi utilizza questi centri, però nello stesso tempo aprirne altri significherebbe mettere ulteriormente a rischio quello che noi chiamiamo il negozio di vicinato, ma non solo, anche i mercati in piazza degli ambulanti, che tradizionalmente sono una forma importante all'interno dei paesi e delle città, perché sempre di più piccoli negozi chiudono, i centri delle città si trasformano in sedi di banche piuttosto che di assicurazioni, come diceva bene lei, le persone anziane o disabili o chi anche solo non ha un'automobile si trova in grande difficoltà, e anche dal punto di vista sociale in alcuni paesi il poter andare nell'unico negozio a comprare i generi di prima necessità è una fonte anche di scambio di parole, di diciamo relazioni sociali che si vanno perdendo. Allora noi abbiamo ritenuto di fare una pausa di riflessione e verificare, appunto intanto abbiamo sospeso queste licenze che stavano per essere concesse e vogliamo fare una pausa di riflessione per vedere se necessariamente questi grandi centri commerciali sono effettivamente utili, servono a che cosa e invece non vadano a intaccare ulteriormente il tessuto commerciale delle nostre città, dei nostri paesi e anche quello sociale. Pamolli, se andiamo a vedere un pochino come se la sono cavata nella crisi della domanda interna, quindi dei consumi italiana, i diversi segmenti della distribuzione commerciale, e cioè tra il negozio di prossimità e la grande distribuzione, come sono stati ripartiti i pesi e gli impatti della crisi? Un punto importante è legato a un andamento divaricato che si è proprio manifestato sia immediatamente prima che poi dopo la crisi. Da un lato c'è stata una dissociazione tra l'andamento dei volumi e quello dei prezzi, perché la struttura dei piccoli esercizi, proprio per ragioni di configurazione dei costi interni, quindi non voglio imputare nessuna strategicità a queste decisioni, si è trovata in una situazione di non poter praticare riduzioni di prezzo che avrebbero consentito un innalzamento o un mantenimento dei volumi nel momento in cui c'erano forti pressioni sulla domanda interna. Quindi quello che si è registrato è stato che la grande distribuzione è stata un elemento di tenuta della domanda interna, questo è un elemento che già i dati dell'anno scorso ci dicevano. Anche quando c'è stata una ripresa della domanda interna, questa ripresa della domanda interna si è manifestata per quanto riguarda i beni di largo consumo, soprattutto in corrispondenza della grande distribuzione. E da questo punto di vista c'è stata anche una forte selezione dei piccoli esercizi che hanno, attraverso la crisi, scoperto che è molto difficile realizzare politiche di basso prezzo, quindi un low cost, su piccola scala. Questo è poi un punto che va considerato dal punto di vista strutturale. Non siamo in una situazione normale di ordinaria amministrazione, non lo siamo ancora oggi, abbiamo avuto un effetto depressivo sulla domanda interna che poi è uno degli elementi di grande difficoltà del nostro paese nella fase attuale, e questo andamento ha portato a una divaricazione degli indici di prezzo. Noi purtroppo la possiamo stimare questa divaricazione degli indici di prezzo unicamente per aree geografiche, perché non abbiamo ancora una scomposizione degli indici di prezzo al consumo da parte dell'Istat per tipologia di esercizio commerciale, ma se guardiamo la diffusione della grande distribuzione e l'andamento dell'inflazione nel corso degli ultimi anni, vediamo che l'inflazione nelle regioni e nelle province italiane è stata più bassa nelle zone in cui la grande distribuzione è più diffusa. E da questo punto di vista vale la pena riflettere sul fatto che il paese, prima che la crisi scoppiasse, si trovava già in una fase di stagflazione strisciante. Ora non vorrei, quindi di bassa crescita, ma di continua pressione inflattiva. Non è certo imputabile integralmente alla scarsa diffusione in alcune zone del paese della grande distribuzione, ma c'è sicuramente un impatto della struttura dei canali. Ultimo punto, a onor del vero, c'è anche una profonda differenziazione nel nostro paese tra regioni e regioni nella diffusione della grande distribuzione, ed è indubbio che regioni come Lombardia, Veneto e Piemonte ed Emilia-Romagna siano tra le regioni con la più alta diffusione della grande distribuzione. Poi su altri quindi aspetti, siccome sono le regioni con la più alta distribuzione, si potrebbe anche credere che in effetti si è raggiunto un punto di equilibrio nel dare aree commerciali per fare i grandi centri. Ma io tendo a pensare che il punto di equilibrio, soprattutto in questo comparto, lo scoprano gli operatori attraverso le loro strategie di esplorazione delle dinamiche di mercato. Certamente c'è una differenziazione marcata della diffusione della grande distribuzione tra nord del paese e l'area nord-occidentale, in particolare Lombardia e Piemonte, ma anche il Veneto, quindi in realtà è proprio una differenziazione tra nord del paese e sud del paese, dove invece la grande distribuzione ha avuto una diffusione molto più contenuta. Poi ci sono altri aspetti che non so se è il caso di analizzare adesso, che attengono... Aspetti un secondo, perché intanto approfittiamo del fatto di avere l'assessore fino ancora qualche altro minuto per fargli delle domande da parte dei nostri ascoltatori, perché c'è una raffica di messaggi che arrivano, gliene sottopongo alcuni. Dicono: ma perché non contemporaneamente frapporre ostacoli alle licenze che erano già state date, quindi non tornare indietro, e contemporaneamente però, se il giudizio che voi avete all'assessorato regionale di dover riequilibrare, incentivare magari con sostegni appropriati possibili per il vostro bilancio il commercio di prossimità nei centri meno grandi o nei quartieri nei quali ha perso posizione nelle grandi città della regione? Perché non fare entrambe le cose? Per esempio, chiede un ascoltatore. Noi innanzitutto tengo a chiarire che non è che leviamo le licenze a chi già le ha, nel senso abbiamo solo, non concediamo nuove, abbiamo bloccato momentaneamente nuove licenze, e già la regione ha nei suoi compiti istituzionali quella di promuovere il commercio tradizionale e in generale la promozione commerciale, quindi noi faremo azioni che vanno a vantaggio anche della media distribuzione, perché per esempio guardando da un punto puramente economico, ha ragione sicuramente chi ha parlato prima di me, ma da un punto di vista sociale, io ripeto, oggi noi dobbiamo garantire una libertà di scelta soprattutto. Allora, in Piemonte, nell'arco di 5 chilometri, 6 chilometri, esistono i supermercati, nello stesso tempo i centri delle città si desertificano. Certo che se noi guardiamo solo l'aspetto economico, diciamo le nostre città devono diventare dei deserti, delle pure vetrine finanziarie, l'aspetto sociale non ci interessa, questo è un altro ragionamento che però io non ritengo che nell'equilibrio di una regione questo sia possibile fare, quindi proprio noi secondo me abbiamo raggiunto un equilibrio, appunto, che a questo punto va regolamentato, va controllato e va verificato di anno in anno, tant'è vero che il mio provvedimento ha avuto anche il plauso di alcuni direttori di grande distribuzione, perché dicono in effetti è inutile che si aprono nuove situazioni che metterebbero ulteriormente in difficoltà anche posti di lavoro già nei centri di grande distribuzione che esistono. Ora sentiamo qualche telefonata, sentiamo per esempio Teresa dalla provincia di Vicenza. Prego Teresa, lei come la pensa? Buongiorno dottor Giannino, io sono presidente mandamentale di Confcommercio a Bassano del Grappa. Quindi ha un'opinione strutturata, diciamo così. I comuni 1800 imprese, volevo portare due esempi. Allora, proprio questo autunno ha aperto proprio ai confini strettissimi della città un nuovo centro commerciale, il quale già a distanza di pochissimi mesi ha diverse difficoltà, soprattutto per la parte alimentare. Ripeto che la nostra è una zona ad altissima saturazione di distribuzione, perché il commento delle anche mie amiche colleghe massaie come me è questo: non sono più disponibile a fare mezz'ora di coda per parcheggiare e mezz'ora di coda alle casse. Voglio fare una spesa di vicinato che sia la migliore possibile, con il miglior prezzo e la migliore qualità. Quindi già questo la dice lunga in termini di saturazione di operazioni che sono nate strategicamente 5-6 anni fa, ma che oggi il mercato non porta più. L'altro esempio che volevo portarle velocemente: 10 giorni fa con altri colleghi delle Confcommercio di Schio e Chiene siamo andati a Klagenfurt, perché a Klagenfurt c'è un centro commerciale proprio nel cuore storico della città. Cos'è che mi ha colpito di Klagenfurt, che è una bellissima città? Ah, breve però, perché se ci mettiamo a descrivere Klagenfurt... No, te lo dico velocissimo, che nessuno dei negozi del centro di questa città era a livello della proposta distributiva italiana. Quindi la nostra conclusione è questa, ed è questo il mio messaggio, che bisogna proprio aiutare le attività di vicinato a riqualificarsi, a riavvicinarsi, ad aggregarsi, ma la proposta è già alta ed è già buona, deve solo riammodernarsi. Quindi sono perfettamente d'accordo con quanto detto prima. Grazie a Teresa, che ovviamente ha girato il nostro filtro, perché ha svelato solo dopo, una volta in diretta, che era Confcommercio. Sentiamo Gastone d'Arezzo invece. Lei è più contro o più a favore la grande distribuzione nella parte d'Italia dove vive? Perché naturalmente le articolazioni di offerta sono diverse, non bisogna dare giudizi generali. Ma dove sta lei? Che dice? Sì, sono favorevolissimo alla grande distribuzione, perché i negozi di prossimità, a parte che sono rimasti pochi e scomodi anche per gli anziani, i disabili eccetera, hanno dei prezzi carissimi. Ora, se poi consideriamo che siamo anche in un periodo purtroppo di crisi, andare ad acquistare una cosa che nei negozi di prossimità costa anche il 20-30-50% in più, io proprio vedo bene solo la grande distribuzione. Grazie, e sentiamo ancora Elisabetta da Roma. Buongiorno, allora io volevo parlare dell'ortofrutta. Si parla tanto di saltare la filiera che c'è dal produttore al consumatore. Qui a Roma ci sono tantissimi banchetti settimanali che vendono, dicono di essere produttori, perché raccolgono la notte e la mattina vendono. Hanno dei prezzi carissimi, molto più cari dei negozi e quindi tutta questa storia di saltare la filiera non la capisco. Delle volte gli ho anche chiesto: ma scusate, avete anche delle licenze che vi permetterebbero di fare dei prezzi più bassi, visto che siete dei produttori? Assolutamente non ci sentono sotto questo aspetto. Io sono felice di chiedere a lei se ne sa qualcosa di questo fatto, perché mai nessuno ne parla. Io abito vicino al mare, ad Ostia, siamo circondati da banchetti che vengono uno o due volte a settimana. Vabbè, da Velletri, che è una zona qui nei guardi, signora, la interrompo per dire che del resto, per equilibrare dall'altra parte le sue considerazioni, io faccio consulenza anche per gruppi di grande distribuzione, ohimè, lo ammetto, anche se come vedete in questa trasmissione non sto facendo in alcun modo, e mi sforzo che sia così, ma ve lo dichiaro perché così lo sapete a casa, però mi sforzo di essere il più possibile imparziale. Ma tra le accuse che vengono mosse alla grande distribuzione, proprio dalla filiera che dice lei, quella agroalimentare dell'ortofrutta, è quella di strangolare i prezzi, cioè di comprimerli troppo rispetto al margine consentito ai produttori. Questa è proprio una delle accuse più pesanti, perché attraverso la centralizzazione della funzione degli acquisti e la scelta dei fornitori, che naturalmente implica volumi, la possibilità di stare sul mercato, perché se voi vai fuori dalla catena di alimentazione a grande distribuzione perdi volumi che in anni come quelli che abbiamo, i due anni che abbiamo alle spalle, possono essere la differenza tra stare sul mercato e non starci, però devi accettare il loro prezzo. Del resto il mercato funziona così quando ti prende a quei volumi così rilevanti, e questo però porta la filiera a dire: ci strangolano. Quindi dall'altra parte quando, verificare sempre, si incrociano davvero degli, dei commercianti ambulanti che sono autoproduttori, verificarlo, perché quasi sempre lo dicono e non è vero, ma è pressoché inevitabile che i prezzi siano anche molto più elevati rispetto a quelli che si trovano nei segmenti della distribuzione grande e molto grande. Ora pubblicità e poi torniamo ancora con l'assessore e poi lo lasciamo libero senza tenerlo fino alla fine. 9.33, 23 secondi, questa seconda parte. Siamo partiti dal caso della Regione Piemonte, abbiamo l'assessore della nuova giunta guidata dal presidente Roberto Cotta, l'assessore al commercio Bignan Casoni, che ci ha spiegato e continuerà a spiegarci le ragioni per cui la nuova giunta, appena entrata in carica, ha detto ma un freno, non è che vogliamo modificare intanto l'attribuzione delle licenze grande distribuzione precedente, ma un freno forse sul inoltrarsi ulteriormente su questa strada è necessario per l'equilibrio tra le componenti della la grande distribuzione e invece di quella di prossimità. Abbiamo sentito da Pamolli che queste due componenti hanno dato un contributo diverso, diversamente significativo in realtà, a sostenere meglio le capacità di acquisto del basso reddito disponibile degli italiani per effetto della crisi. Basso significa che ovviamente l'avvaloramento molto relativo degli anni precedenti, del decennio dell'euro, è diventato poi un segno meno negli anni della crisi, e questa è la componente più seria anche del problema della crescita italiana, che dipende molto troppo forse dalle esportazioni, perché ha una domanda interna debole e stagnante, se non con segno negativo, per tante ragioni. Ma è chiaro che a quel punto, come si formano i prezzi e come vengono offerti dalla catena distributiva ai italiani che hanno nella media non troppi soldini da spendere, diventa una questione fondamentale proprio per articolare meglio la capacità del reddito disponibile degli italiani di fare scelte un po' meno peggiori. Ecco, siamo in questa forbice di possibilità e vediamo ora chi ci ha raggiunto. Ci ha raggiunto, oltre all'assessore, a cui terrei solo la prima domanda e poi lo mandiamo a fare il suo mestiere, quello per cui ha vinto le elezioni, ci ha raggiunto però anche Maria Luisa Coppa, che è il presidente dell'ASCOM di Torino. Buongiorno presidente. Buongiorno a lei dottore, buongiorno a voi. E Vanni Cadelupi, che è un saggista, insegna sociologia dei consumi all'Università di Modena e Reggio Emilia, e ci aiuta quindi anche a capire un po' l'impatto che le diverse figure, i diversi ambiti dimensionali della distribuzione commerciale hanno sulla nostra vita. Buongiorno professor Cadelupi. Buongiorno. Allora, assessore, a chi le chiede, perché arrivano dei messaggi di questo tipo, se quanto conta l'identità politica, quella della Lega, quella nel dare un ascolto diverso a rappresentanze del mondo del commercio come quelle del commercio tradizionale rispetto a una grande distribuzione che viene invece avvertita e concepita come espressione di grandi catene internazionali o di capitali più concentrati a livello nazionale. Conta questo aspetto politico in decisioni come quelle che avete assunto o non c'entra niente e lo fate solo dati alla mano, sforzandovi di interpretare quello che ci ha già detto, cioè l'equilibrio delle due componenti? Ma guardi, io credo che in Piemonte, come si sa bene, è cambiato il colore politico della regione. Evidentemente il tessuto sociale ha ritenuto di cambiare, perché la giunta precedente di centrosinistra non aveva soddisfatto i bisogni dei cittadini, diciamo così. E quindi questo io credo sia anche un riflesso sicuramente politico. Noi abbiamo una visione della società. Premetto che io sono del Popolo della Libertà, sì, certo. sono, però conosco bene il territorio, sono consigliere regionale da molti anni, quindi conosco bene il territorio e ritengo che oggi appunto sia il caso di dare più aiuto a quei soggetti. Come? Noi stiamo parlando solo dei negozianti, ma appunto non dimentichiamo i mercati ambulanti, che nei paesi medi, quelli diciamo di 5, 10, 12 mila abitanti, sono oggi una cosa viva, che però anche lì notiamo una minore presenza sul territorio. Allora dobbiamo anche regolare il sistema, la politica ha il compito di regolare prevedendo quelli che possono essere anche i fenomeni sociali, economici e commerciali. Ecco, noi riteniamo che in questa fase sia opportuno bloccare la grande distribuzione e fare politiche a favore della media, della piccola, degli ambulanti, per riequilibrare Com'è? D'altronde oggi chi oggi vuole può andare sia in un supermercato, sia al mercato degli ambulanti, sia nei negozi. Però, ripeto, in queste ultime due categorie, nelle città, le vetrine, le saracinesche sono sempre di più abbassate. Io ringrazio l'assessore. Raffica di ascoltatori per le domande ai successivi interlocutori. C'è chi dice di vivere, per esempio, messaggio da Carpi, nella rossa cooperativistica Carpi: la grande distribuzione permette in teoria un risparmio, però trovo assurdo che in città come la mia ci siano più supermercati che negozi di prossimità. Altri invece dicono: assessore Casoni, d'accordo quello che dice, però attenzione, nella grande distribuzione è vero che si paga molto meno, e soprattutto tenga conto anche che la grande distribuzione paga fino all'ultimo euro le tasse, mentre gli ambulanti spesso evadono. Però questo devo dire che a mia volta significa mischiare argomenti completamente diversi, nonché aderire a una specie di dittatura ideologica di come gli evasori si classificano a seconda di quello che fanno. Io molte volte ho spiegato a chi ci ascolta che ho argomenti per dire che non è così e bisogna respingerla questa cosa. C'è chi dice che anche catene di grande distribuzione come Carrefour in realtà si sono impegnate nell'evoluzione della struttura dell'offerta, anche a creare centri distributivi più piccoli nelle cittadine. Ci sono esempi dal nostro ascoltatore dei Lombardi, della Lombardia, che ce le propongono. Quindi diciamo che c'è un ventaglio molto ampio di posizioni su questo argomento. Sentiamo ancora un paio di telefonate e poi andiamo ai nostri ospiti. Sentiamo per esempio Davide, che ci chiama dalla provincia di Cuneo. Sì, buongiorno. Guardi, io direi che capita fagiolo questa trasmissione. Io sono un giovane di 29 anni, laureato in economia, e ho avuto la fortuna di lavorare e studiare in Italia e all'estero. Adesso ho deciso di avviare la mia prima impresa proprio dove vivo, e a parole ho incontrato il comune, il sindaco, il vice sindaco, e si sono detti favorevoli. Che impresa è? Un discount. Avrei creato, voglio creare 12 posti a regime di lavoro entro il 2015, quindi partendo i miei calcoli sono novembre di quest'anno, con 4 persone a tempo determinato full time, a regime 12, il comune si è detto disponibile a parole, nei fatti mi sta ostacolando in tutti i modi, perché mi hanno risposto due volte negativamente, la prima volta dimenticandosi un parametro e quindi sbagliando, la seconda volta utilizzando una parte del piano regolatore che sia normativa nazionale, il decreto legislativo 114 del 98, che la normativa regionale non consentono. E sono veramente stupito di come in Italia l'impresa non sia creare un'impresa, ma sia avere a che fare con l'amministrazione pubblica, che non incentiva ma al contrario frena. Però Davide, siamo sicuri che le difficoltà non dipendano appunto dal ben noto problema degli ostacoli, troppe vincoli amministrativi alla nuova impresa, piuttosto che al tipo di impresa che lei vuole aprire? Discount, punto interrogativo. E comunque grazie della testimonianza. Ancora Alessandro da Milano, breve per favore. Buongiorno, sì, niente, volevo dire che spesso nelle dinamiche di concessione dei centri commerciali non si tiene conto, soprattutto qui al nord, che molte aree industriali vengono riqualificate solo a condizione che insista nell'area stessa di un centro commerciale. Questo porterà per esempio nell'area di Arese, ex Alfa, esatto, che va a coprire due comuni limitrofi, probabilmente la costruzione di due grandi centri commerciali a un chilometro di distanza uno dall'altro. Vede, quello quindi che le dinamiche non quello sono che lei, quello che lei solleva è una questione che ha a che vedere anche con l'impatto che tutte queste superfici, che a volte sono state impegnate dai immobiliaristi, imprese immobiliariste, a questo fine non hanno poi ottenuto davvero lo sviluppo e l'implementazione prevista. Questo ha avuto anche un effetto che è di grande impatto, e la componente di più grande impatto dei prezzi di tutta la filiera immobiliare italiana, perché proprio la componente commerciale è quella che ovviamente ha stentato di più, proprio per questo eccesso di previsione di ristrutturazione di aree precedentemente adibite ad altro uso, non solo industriale, destinate allo sviluppo di grandi centri commerciali, e che poi naturalmente di fronte al rallentamento generale, sia pure essendo quello il segmento che se l'è cavata meglio nel 2009, come ci ricordava Pamolli, però l'effetto sui prezzi delle aree immobiliari c'è stato. Quindi il fenomeno che lei cita è uno dei fenomeni più rilevanti della trasformazione delle aree immobiliari italiane, tanto che ha un impatto di prezzo molto forte in quel segmento lì. Allora, iniziamo a sentire un pochino che dice il presidente dell'ASCOM di Torino, Maria Luisa Coppa. E immagino che il suo punto di vista fosse che questo marcia indietro dell'assessore fosse finalmente una specie di beneficio a lungo atteso, una buona scelta di intelligenza, o no? assolutamente, noi è da tempo che lo chiediamo, un rallentamento della grande distribuzione. Devo dire che già qualcun altro ce l'aveva anche promesso. Il problema, io credo che sia nei termini che l'assessore ha spiegato, e che io ritengo che finalmente questa giunta sarà in grado, mi auguro, di realizzare quello che a parole più volte attenta a non farsi dire che sta facendo propaganda elettorale ancora per la giunta. Il problema vero, secondo voi, qual è? Assolutamente, il problema vero, guardi, io credo che abbia una parte di ragione, anzi abbia ragione l'ultimo ascoltatore che ha parlato, perché ha toccato un problema molto importante, che è quello immobiliare. Allora, lei pensi all'area di Torino e provincia, con tutta una serie di aree deindustrializzate che esistono, e quindi con il rischio enorme che queste vadano naturalmente ad essere ricollocate commercialmente. E non soltanto è un affare degli immobiliaristi, negli ultimi anni la grande distribuzione è stata una speculazione edilizia immobiliare, ma certamente posso anche dire favorita dalle amministrazioni comunali, che quando hanno bisogno di risorse dagli oneri di urbanizzazione naturalmente traggono dei grandi profitti. Allora, non si è giocato questo ruolo di piccola, media, grande distribuzione a favore dei consumatori, come si vuol far capire. Devo dire che i consumatori hanno già un'abbondante possibilità di scelta, e non è neanche vero che la grande distribuzione ha sempre fatto da calmiere. Certo, i prezzi civetta ci sono nei negozi, ma in particolare nella grande distribuzione, ma sicuramente non è stata la grande distribuzione a calmierare i prezzi. Ad esempio, invece, i mercati rionali, come è stato ricordato, sono veramente dei luoghi dove si calmierano fortemente i prezzi, e hanno continuato a fare quel loro ruolo. 9:47 e 12 secondi, eccoci quest'ultima parte della trasmissione. Oggi stiamo parlando, necessario riequilibrare rispetto al troppo spazio dato alla grande distribuzione dopo le liberalizzazioni Bersani applicate dalle regioni negli anni scorsi. Abbiamo cominciato dal Piemonte, abbiamo fatto parlare l'assessore, ci hanno dato la sua spiegazione, abbiamo appena sentito il presidente dell'ASCOM di Torino, ovviamente favorevole a questo riequilibrio. I nostri ascoltatori restano molto divisi, molto divisi tra chi sostiene che l'impatto sui prezzi della grande distribuzione è il fenomeno più interessante per semplificarsi la vita, e c'è chi invece denuncia ovviamente i fenomeni che derivano da il potere che sul mercato ha la grande distribuzione in tutta la catena dei prezzi, fornitura, filiere di produzione, scelta di chi fa parte e di chi non fa parte invece della struttura distributiva sottostante. Quindi diciamo due partiti il cui bilancio mi colpisce, perché negli anni alle nostre spalle, dopo tutto il grande dibattito sulla Bersani, erano molto più in maggioranza, mi sembra, coloro che erano a favore della liberalizzazione aperta all'estremo del commercio. Evidentemente gli italiani in questo non hanno ottenuto grande evidenza, forse, del risparmio conseguibile, perché la mia impressione, lo dico a Pamolle a cui poi faccio una domanda, è che stiamo perdendo posizione noi liberalizzatori. Comunque sentiamo ancora Fernanda da Messina, che è una parte d'Italia che abbiamo poco sentito fino a questo momento. Fernanda, dalle sue parti bisogna ripensare o estendere la grande distribuzione? Buongiorno, io appunto sono intervenuta perché ho sentito dire che ormai la grande distribuzione ha assautorato tutte le città, e quindi io invece volevo segnalare che, siccome abito nella zona nord di Messina, per andare al più vicino centro commerciale, più vicino a casa mia, devo fare oltre 15 chilometri. E siccome Messina nella zona nord non ha nemmeno una tangenziale, io impiego almeno un'ora per arrivarci. E siccome è l'unico centro commerciale che c'è, ovviamente è molto difficile è molto difficile trovare parcheggio ed è difficile pure diciamo tutto quello che concerne. Grazie a Fernanda che ci ricorda appunto che c'è una parte d'Italia, come diceva il professor Pamola all'inizio, in cui la grande distribuzione è ben lungi in realtà dall'aver raggiunto dimensioni, impatti, trasformazioni di aree immobiliari come quelle raggiunte in Piemonte, in Lombardia e in Veneto. Professor Casoni, siamo arrivati al punto di saturazione, ci sono degli elementi nelle indagini qualitative, quantitative condotte sugli italiani in quest'ultimo anno, anno e mezzo di crisi, tali da far ritenere che al giudizio degli italiani la trasformazione e l'impatto della grande distribuzione nella loro vita era arrivata a un punto ritenuto tale da minacciare addirittura caratteri identitari, o invece è un po' un effetto della crisi lamentarsi, ma c'è ancora un vasto pezzo di strada che la grande distribuzione è giusto immaginare faccia nel trasformare le nostre vite. Professore? Sì, pronto. Diciamo che sono arrivati effettivamente, a mio avviso, a un punto di saturazione questi megacentri, ma non tanto dal punto di vista del successo presso i consumatori, che in parte c'è ancora, anche se noi dobbiamo considerare che c'è una trasformazione della struttura demografica, per cui queste grandi strutture sono state pensate per le famiglie, per le grandi famiglie con molti figli, ma noi sappiamo che nelle aree più avanzate del paese ormai la struttura familiare è fatta di single o al massimo di due persone, insomma i figli sono sempre di meno, la nostra popolazione italiana è la più vecchia d'Europa e diventa sempre più vecchia, quindi queste strutture diventano anacronistiche nel momento in cui appunto i consumatori vogliono delle proposte personalizzate su misure, quindi anche spazi di consumo che conseguentemente offrono un'offerta mirata secondo le singole esigenze. Questo è una tendenza internazionale, quindi noi vediamo che anche a livello europeo sta avvenendo questo e vediamo che molte grandi catene cercano di creare delle strutture distributive di piccole dimensioni all'interno del centro urbano, quindi la tendenza di questi ultimi 2-3 anni a livello internazionale di un ritorno al centro urbano, quindi il mercato si regola, insomma, si autoregola in qualche misura, evitando gli eccessi del passato. Ma la diversità dell'articolazione geografica, la struttura del commercio italiano fa convivere realtà in cui questo già si vede di più come nel nord e altre in cui secondo me siamo ancora a distanza di anni dall'arrivare a questo, oppure no? Questo è vero, c'è una grande differenza tra il sud e il nord che rispecchia una differenza anche in termini di distribuzione di reddito, quindi al nord abbiamo avuto l'ingresso di queste grandi strutture, dei discount, insomma tutte queste catene che sono arrivate e che hanno sostanzialmente occupato il territorio, soprattutto gli spazi extraurbani, e poi progressivamente si è estesa nel resto della penisola, però il sud rimane ancora diciamo arretrato questo sviluppo, per cui chiaramente bisogna differenziare, però io credo appunto che in qualche misura appunto noi andremo verso un maggiore equilibrio, comunque diciamo il mercato evolverà in questa direzione in generale, un maggiore equilibrio quindi tra lo sviluppo del commercio all'interno della città e lo sviluppo extraurbano. Questo però ci sarà anche se la città farà il suo compito, nel senso che deve darsi da fare, deve rivitalizzarsi, deve creare strutture di servizio, esatto, deve cioè, creare parcheggi. Cioè la pianificazione urbana deve trovare nuove assi che non siano quelli falliti negli ultimi 25 anni nelle grandi città italiane, per riarticolare un'offerta di servizi nel cui ambito c'è anche il discorso di organizzazione delle tipologie e della riqualificazione di segmento più elevato del commercio di prossimità. Io mi scuso col professor Codruppi perché prima l'ho chiamato occasione, adesso capisco perché non mi rispondeva, perché nella velocità della mia disarticolazione mentale poi sovrappongo i cognomi. Professor Pappamoldi, però in definitiva perché noi liberisti che vedevamo, parlo per me ovviamente, non la voglio associare ai miei errori, ma perché noi che vedevamo qualche anno fa nella della liberalizzazione, un'ondata che avrebbe trasformato la storia del commercio, con evidenti impatti graditi anche alla stragrande maggioranza degli italiani, di contenimento dei consumi e di semplificazione delle catene, visto che poi la frantumazione dei passaggi è uno dei problemi anche dell'inflazione maggiore del nostro mercato. Ricordiamolo, c'è anche un grande impatto macro di questa faccenda rispetto agli altri paesi europei. Perché secondo lei in qualche misura registriamo che stiamo perdendo qualche posizione? È stata male attuata la liberalizzazione? Non ha tenuto conto della diversità delle articolazioni geografiche e di sviluppo dei mercati commerciali nelle diverse parti del paese? Oppure in realtà non ha ottenuto gli effetti perché invece di traslarli sul consumatore sono rimasti un po' nelle tasche dei grandi distributori? Seguendo il settore, lei che dice? Quest'ultimo punto di una pressione concorrenziale che non si è tradotta integralmente in benefici per il consumatore in termini di riduzione di prezzo è in parte vero, ma il fenomeno che stiamo osservando e gli interventi di oggi a mio avviso lo rivelano in modo molto interessante, è un fenomeno che non sconfessa e non smentisce la validità di una impostazione che veda nella maggiore diffusione della grande distribuzione un elemento di per sé non negativo e al contrario un elemento positivo. Mi pare che quello che sta accadendo nel comparto della distribuzione sia un esempio di un processo più vasto che riguarda anche l'industria, non solo la distribuzione, e che riguarda da un lato una impossibilità di una lettura omogenea del tessuto produttivo e distributivo del nostro paese, con un paese a due velocità, e dall'altro un paese a due velocità rispetto a dinamiche che sono dinamiche anche di apertura alla globalizzazione, di impatto della globalizzazione. Rapidissimamente cerco di spiegare. Certo. Perché. Quello che vediamo nel nord è di fatto già il manifestarsi di una terza fase della globalizzazione, cioè a dire dopo una fase di entrata di merci e di produttori e di paesi a basso costo, ma che avevano una difficoltà nel realizzare livelli di qualità elevati, c'è stata una fase di cosiddetto catching up nella qualità da parte di alcuni dei produttori localizzati in questi paesi e quindi di produzione di beni. Questo ha impattato, ripeto, l'industria in primo luogo e però ha anche impattato la distribuzione di beni che hanno innalzato i livelli di qualità relativi, hanno realizzato economie di scala a livello internazionale perché i produttori che sono sopravvissuti hanno in parte realizzato un innalzamento dei volumi e economie di costo. La fase terza è una fase di risposta delle strutture, esatto, sia delle strutture distributive che delle strutture industriali. Allora mi pare che l'affermazione della rappresentante della Confcommercio Veneta e della rappresentante dell'ASCOM di Torino sono affermazioni importanti perché implicitamente dicono che sono quegli esercenti che stanno investendo, che stanno facendo uno scale up dell'investimento nelle nicchie e che si stanno manifestando come imprenditori che cercano alto valore aggiunto nella specializzazione, la loro posizione di mercato. Qui non ho sentito parlare di un low cost associato al vicinato, queste sono strategie diverse. Allora non so quanto queste strategie diverse possano beneficiare in modo diretto di forme come dire paternaliste. Quello che è vero è che c'è un problema di programmazione urbanistica, che c'è un problema di riqualificazione del tessuto urbano e però anche di una diversità che non dobbiamo dimenticare, facendo la trasmissione nazionale su una radio nazionale, tra parti d'Italia in cui il fenomeno è ancora a livelli molto diversi di manifestazione delle sue conseguenze, dove ben non si è arrivati certo alla terza fase della liberalizzazione, della reazione alla liberalizzazione commerciale, ma in realtà la prima è appena cominciata. Allora io ringrazio oltre al professor Pamolli il professor Codeluppi, Maria Luisa Coppa, presidente dell'ASCOM, l'assessore Casone che abbiamo sentito all'inizio, e mi scuso con gli ascoltatori come Mauro Arrigo che non abbiamo fatto in tempo a mandare in onda, ohimè ho sforato di troppo. Grazie in regia a Paolo Corleoni, in redazione Alessandro Marco Turri, che oggi non meriterebbe però insomma glieli facciamo comunque. Ringraziamenti, la linea al giornale radio, l'appuntamento a domani.